Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dal dato definitivo sul PIL italiano nel 2010, più 1,1%. Poi ci sposteremo a Bruxelles, dove il vertice dei ministri economico-finanziari, il vertice Ecofin, intervenuto in conferenza stampa anche il nostro ministro Giulio Tremonti. Poi ci sposteremo a Roma, dove Sergio Marchionne è stato sentito, quindi il numero uno della Fiat, in audizione parlamentare. Ha garantito l'impegno della Fiat verso l'Italia, ha detto che la fusione con Chrysler non arriverà prima del 2014, ha lamentato i pochi modelli venduti nell'anno che si è appena chiuso e altre dichiarazioni. Oggi in giacca e cravatta, chi interessano gli elementi di colore, non con il maglioncino. E poi da lì ci sposteremo alla borsa, adesso vi do subito l'aggiornamento, per poi ascoltare anche le dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Oggi è intervenuto a un convegno con l'ABI, con le banche italiane. E infine, alle 18.10 avremo uno degli splafonatori, ossia di chi non ha rispettato le quote latte, anche questa volta di chi sta costando 30 milioni di euro in manovra finanziaria che verranno levati ai fondi per il welfare, per i disabili, per la ricerca, per l'università. Lo dico perché abbiamo cercato, i vari politici e senatori non erano disponibili, però almeno abbiamo trovato qualcuno che ha da anni non rispetta le quote. Si sono offesi perché li ho chiamati banditi ieri. Anche Robin Hood si definiva un bandito, per cui insomma, avremo modo invece di fare parlare queste persone. È giusto ascoltare tutti, per quanto resti da sempre il nostro più totale disaccordo e soprattutto critica a il comportamento di alcuni assolutamente minoritari che fanno pagare poi le loro conseguenze a tutti. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora subito le notizie in breve. E partiamo come sempre dalla borsa, più 0,75% in questo momento Milano, più 0,33% Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,40%, l'euro a quota 1,3511, chi va bene? Vanno bene le banche oggi, Monte dei Paschi soprattutto, più 4,74%, ne parliamo durante i mercati, poi Unicredito più 3,20%, Intesa San Paolo più 2,90, Ubibanca più 2,5, Mediobanca più 1,60, Popolare di Milano più 1,30, come Fondiaria Sai. Più al palo invece il Banco Popolare, che guadagna solo lo 0,80%, fronte opposto Parmalat meno 3,1, Fiat meno 1,80, Pirelli meno 1,20, Mediaset meno 1,20 anch'essa, Diasori meno 1% come Prismian, lo 0,90 lo perde Finmeccanica ma anche Exor. Sì, oggi Fiat Industrial, cioè camion e trattori, perde ben più di Fiat Auto, come è praticamente ferma, più 0,01 Fiat Auto. Oro stabile, in leggero rialzo, 1356 l'oncia, dollari l'oncia, 85,80 dollari per il petrolio a New York. E poi invece le stime della Banca Mondiale sui danni che possono causare i continui aumenti delle materie prime. Ieri ne abbiamo parlato con il nostro angelo sterminatore Giulio Sapelli. La Banca Mondiale stima che dall'aumento dei prezzi alimentari potrebbero arrivare 44 milioni di nuovi poveri, di persone in più sulla soglia dell'estrema povertà. Allora. C'è chi dice: perché non parli dei rifiuti di Napoli, per i quali abbiamo preso un sacco di multe? Sì, parliamo anche dei rifiuti di Napoli. La differenza è che il governo non ha prorogato in continuazione quelle che sono le multe o i soldi dovuti da qualche centinaio di persone sui rifiuti di Napoli, chiedere i rifiuti di Napoli degli inceneritori, abbiamo parlato decine di volte, non abbiate sempre la coda di paglia. Poi c'è chi dice, insomma, sempre gli stessi argomenti, devi essere più creativo, che noia. Ho capito, questo passa al convento, cosa facciamo? Ci inventiamo le notizie? Alcuni lo fanno, però insomma. Per ora ce la facciamo anche senza. Via libera, torniamo alle borse internazionali, alla fusione tra Deutsche Börse e Euronext, per cui New York Stock Exchange è la risposta alla fusione di cui abbiamo ampiamente parlato tra la borsa italiana e la borsa di Londra, che già sono una cosa sola con la borsa canadese, e adesso nascerà la piazza finanziaria più grande al mondo dalla fusione tra la borsa tedesca e il New York Stock Exchange, che dentro già anche il circuito Euronext. Mario Draghi ha parlato poco fa, stiamo attendendo che ci arrivi la sua dichiarazione anche in voce. Comunque ha detto: la credibilità che abbiamo raggiunto nella politica monetaria europea va salvaguardata mantenendo alta la guardia. Questo è il discorso che ha fatto all'Arel. E per dare tale credibilità, Draghi ha aggiunto, abbiamo rafforzato la resistenza dell'economia dei paesi dell'area di fronte a shock avversi. Del PIL abbiamo detto all'1,1% nel 2010, il governo si tendeva all'1,2%, comunque siamo lì. L'Italia, diciamo, ha avuto un PIL più basso, se guardiamo alla Francia che ha fatto più 1,5%, ma soprattutto la Germania, vabbè, più 3,6%. E la crescita del PIL italiano è anche più bassa della media europea, più 1,7%. Adesso passiamo ai casi di casa nostra, e quindi Fiat, ma non solo. Allora, abbiamo chiamato, insomma, abbiamo battezzato, insomma, la bottega degli orrori. Non ci veniva un titolo migliore, chiedo venia, quindi, perché è un po' agghiacciante delle volte leggere che cosa viene infilato nel decreto mille proroghe. Appunto, si chiama mille proroghe, non è una torta, è un decreto. E gli emendamenti già approvati in commissione contengono di tutto, per carità. Alcuni però, e quelli che riguardano la parte finanziaria, insomma, ci lasciano veramente, veramente basiti. Ecco perché abbiamo parlato di una cosa tipo alla Thriller, alla bottega degli orrori. Al di là dell'ipotesi di rialzare il tasso per l'usura, cioè portare dal 16,6 al 17,8%, e questo è in realtà una buona cosa, cioè, perché non spinge spinge meno le persone sull'usura, voi direte, ma dà la possibilità alle banche, ho capito, però è anche vero che se poi la banca non ha un po' più di flessibilità, forse ti presta anche meno soldi. Comunque, è atteso oggi in aula del Senato. La solidità su usurai per i conti correnti garantiti e non garantiti fino a 5.000 euro passerebbe ad esempio dall'attuale 16,6% al 17,8%. E poi invece ci sono un insieme di emendamenti obiettivamente presentati quasi da degli zombie, vista la situazione attuale dell'economia mondiale e del paese. Allora, al di là dei 30 milioni che costerà i servizi sociali pagare le quote latte degli splafonatori, ne parliamo fra un'ora, quindi non ci torno, vengono sospesi i termini per le demolizioni di costruzioni abusive in Campania. Bella questa. Questo anche per le aree vincolate da norme di tutela paesaggistica. Ora, io poi, se sento di nuovo parlare del fatto che questo paese, il sud, deve ripartire con gli investimenti nel turismo, con i milioni di cinesi e stranieri che non vedono l'ora di visitare il nostro sud, che è bellissimo, però poi quando gli emendamenti sono questi, no? Anche per le aree vincolate da norme di tutela paesaggistica in Campania, che il provvedimento vale per la Campania, si concentrano il 20% di tutti gli abusi edilizi nazionali, il 20%, uno su cinque è in Campania, complimenti. 65.000 gli immobili per cui esiste già una sentenza in giudicato che ne dispone l'abbattimento, c'è già la sentenza, non è colpa della giustizia lenta stavolta. Poi, torna ad aumentare il numero degli assessori nelle città di oltre 1 milione di abitanti, il limite che prima era di 12, e beh, chiaramente non ce la facevano mica in 12, adesso viene portato a 15. aumentano le cadreghe. E poi le sanatorie per le multe e l'affissione di manifesti, striscioni politici abusivi, anche lì è un'indecenza. Ci sono le campagne elettorali, ci sono gli spazi appositi, invadono la città di manifesti elettorali abusivi, c'è una norma che li sanziona, niente, la sanatoria, basta pagare 1000 euro e chiudo tutti i conti. E poi mille proroghe che ha pochi soldi per Gioia Tauro, praticamente il rappresentante pro tempore, scusatemi, della Confindustria Reggio Calabria, il nostro ospite già in alcune occasioni, Pippo Calli, poi ha detto, insomma, si stanno affondando tutte le prospettive per il porto di Gioia Tauro. Il decreto mille proroghe muove verso la sua approvazione, riservando, a quanto dato sapere, solo delle briciole al porto di Gioia Tauro. Però una buona notizia ce l'abbiamo, ed ecco perché partiamo con il gallo oggi. Perché? Perché la Corte dei Conti del Lazio, l'avrete letto forse sui giornali, ha chiesto a Giancarlo Cimoli, lo ricorderete, fu numero uno delle Ferrovie dello Stato e oltre che dell'Italia, ha chiesto a Giancarlo Cimoli di restituire 150.000 euro dei 750.000 euro che ha percepito come premio, pensate, come premio di produzione dal Consiglio di Amministrazione dell'Alitalia tra il 2004 e il 2006, quando l'Alitalia perdeva 1 milione di euro al giorno. Siccome non si capisce qual è il successo di quella gestione, obiettivamente non lo capiamo neanche noi, ci perdoni Cimoli, la Corte dei Conti ha detto, beh, restituisci almeno una parte, perché era un premio legato ai risultati. I risultati non se ne sono visti, l'Italia poi era fallita, e di questi 750.000 daccene almeno 150.000. viva la Corte dei Conti. Sì, fermo restando che poi Cimoli invece, quando fece l'amministratore legato alle Ferrovie dello Stato, cioè fino al 2004, ricevette una liquidazione di 4 milioni e mezzo di euro dalle Ferrovie dello Stato, che obiettivamente anche lì, insomma, risanate non ci sembravano proprio nel 2004, e ricevette dall'Alitalia, comunque ha ricevuto 5 milioni di euro di liquidazione, per cui quelli li ha tenuti, è un accordo, un contratto, complimenti a chi l'ha firmato. Poi ne aveva presi altri 750.000 per premio per gli obiettivi raggiunti in un'azienda che praticamente era già fallita, e la Corte dei Conti ha chiesto una restituzione di parte di questi 750.000, 150.000 per la precisione. Marchionne, chiudiamo su Marchionne. Ha detto che ha rispetto e fiducia nel futuro dell'Italia, che la sede resterà a Torino se si realizzerà il piano della Fiat, che il cuore resta in Italia, la testa in più sedi, sì, il cuore, ma anche qualcos'altro, cioè, che inizia per C, perché insomma non è che basti il cuore in Italia. Marchionne ha detto che nessuno ci può accusare di abbandonare il paese, non c'è nessuna intenzione di lasciare l'Italia, non abbiamo richiesto a fare la politica, pronti, questo è molto importante, ad un aumento dei salari come in Germania, se riusciamo a portare l'utilizzo degli impianti dall'attuale 40% all'80%, e il lancio della nuova Panda arriverà a fine anno. E ne parliamo dopo. Partiamo con il primo tema. 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora respiriamo un po', che poi c'è tutta la parte italiana con la Fiat, Marchionne, Termini Imerese, Lombardo, i Cobas del latte. Allora, respiriamo un po' con l'Europa, lì sì che si disegnano i grandi scenari, si ragiona da statisti, allora vertice dell'Eurogruppo ieri sera e dell'Ecofin oggi a Bruxelles. Volete sapere perché hanno sospeso le demolizioni in Campania? Non lo so, immagino per una richiesta elettorale. Cosa devo pensare? Cioè, insomma, ci sono sentenze già passate in giudicato che dispongono l'abbattimento di 65 immobili abusivi, 65.000 immobili abusivi, il 20% di tutto il territorio nazionale in Campania, anche nelle aree vincolate da nomi di tutela paesaggistica, e adesso viene sospesa. 65.000 case abusive sono 65.000 famiglie, sono 150.000 voti, una roba del genere. Vabbè, vabbè. Antonio Pollio Salimbeni in collegamento con noi da Bruxelles, facci respirare che oggi qui c'è brutto tempo. Dici, buongiorno a voi. Buongiorno a te, corrispondente di Radio Corso 24 ore, appunto da Bruxelles, vertice dei paesi dell'area euro. Ieri sera è arrivata la notizia che c'era via libera al Fondo Europeo di Salvataggio, 500 miliardi. Oggi mi sembra che, non so, ci siano state posizioni molto molto rarefatte. Abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare la notizia, ma tu ci aiuterai, prego. Ma devo dire che la notizia, per la notizia siamo fermi a quanto l'Eurogruppo ha deciso ieri, che il fondo anticrisi permanente, quello che entrerà in funzione dalla metà del 2013, avrà una dotazione effettiva di 500 miliardi di euro. Oggi il fondo di stabilità, quello che presta, quell'organismo che su garanzie dei governi raccoglie capitali sul mercato emettendo bond e poi li presta ai paesi in difficoltà a finanziare il proprio debito sui mercati, ha una capacità effettiva di prestito di 250 miliardi di euro a fronte di 440 miliardi di garanzie. Questa è l'unica notizia che è viaggiata fra ieri e oggi. Il problema è che continuano i negoziati sui dettagli, innanzitutto sul fatto che il fondo anticrisi possa fare prestiti a breve agli stati, perché questi possano a loro volta comprare i loro titoli pubblici sul mercato, a prezzo ovviamente tagliato rispetto al valore facciale, nominale, oppure possa lo stesso fondo effettivamente acquistare lui stesso direttamente i titoli sul mercato, come sta facendo la BCE da diversi mesi con i titoli portoghesi, sì, greci, irlandesi. Vabbè, insomma, a me sembra, vediamo se ho capito bene, io ci capisco poco, ma insomma, mi sembra che sia stato un vertice interlocutorio, anche Tremonti ha detto, beh, l'accordo lo facciamo su tutto, su niente, e noi siamo a favore di una maggiore disciplina sul debito pubblico, ma dobbiamo prendere in considerazione anche i risparmi privati, e qui aggiungerò il mio commento, vigili sulla finanza privata, però mi sembra che stiano un po' come aspettando di capire la prossima mossa dei mercati, forse una sensazione mia maliziosa, cioè siccome la prossima ondata di attacco ai debiti sovrani potrebbe, non è detto che arrivi, potrebbe arrivare marzo-aprile, tu hai ricevuto questa sensazione che intanto predispongono le misure, e appunto il fondo di emergenza, il fondo europeo di emergenza va benissimo, però non avendo ricevuto nessun attacco ai debiti stanno guardinghi, ho capito, ho avuto una sensazione sbagliata? Ma no, e guarda, il motivo per cui ieri sera, abbastanza in modo sorprendente, l'Eurogruppo ha dato la notizia che c'è l'accordo sulla disponibilità effettiva in futuro dei 500 miliardi, è un modo per dire ai mercati: guardate, non stiamo qui con le mani in mano, le decisioni finali su tutte le questioni aperte sarà presa a fine marzo durante il vertice dei capi di stato di governo, il 25, 26, non mi ricordo più, alla fine di marzo. Nel frattempo ci saranno varie riunioni dei ministri finanziari straordinarie e dei capi di stato di governo dell'Eurozona, questi ultimi si riuniscono a Bruxelles l'11 di marzo, per vedere step by step, passo dopo passo, come va il negoziato e per stringere laddove devono stringere. In sostanza, a fine marzo avremo un quadro preciso del meccanismo anticrisi finanziaria del futuro, cioè che partirà, entrerà in funzione da metà 2013, ma ci sarà sicuramente anche un accordo per ampliare la sua missione anche attualmente. Chiaro. Sul tavolo, per esempio, c'è il fatto, la richiesta di Irlanda e di Grecia di diminuire, di ridurre il prezzo del prestito ricevuto. Sì, devo dire una cosa. Non ce la fanno. Eurostat ci dicono che la Grecia è ancora in recessione. Sì. No? Quindi dove prendono i soldi per poter pagare i debiti che hanno contratto? E poi c'è la parte da Cimoli, mi verrebbe di dire. No, che ti sei perso la prima parte, dico da Cimoli, visto che parlavamo di Cimoli prima. Prego Antonio, prego. E poi... poi c'è la parte che riguarda la disciplina dei bilanci pubblici e la sorveglianza sulle politiche macroeconomiche. Qui si inserisce il tema italiano del debito, di cui ha lungamente parlato Tremonti oggi. Allora, una cosa, Antonio, però devo dire che Tremonti fa un ragionamento e dice: insomma, va bene controllare la finanza pubblica, l'ossessione tedesca, ma giustissima, ci mancherebbe. Però guardiamo anche quella privata. E qui vorrei proporti l'ultimo spunto prima di concludere. In effetti, se guardiamo a quello che è successo in questi due anni, soprattutto nel 2008, è successo che i disastri creatisi nel mondo del risparmio privato sono stati poi ripagati dalla finanza pubblica. Mi spiego. In Irlanda il problema cos'era? Banche che davano mutui a gente che non è in grado di pagarli, bolla del mattone, credito al consumo su tutto anche in Gran Bretagna, credito al consumo in America, cioè quello che le famiglie hanno speso senza poterselo permettere, diciamo proprio in sintesi, e perché le banche gliel'hanno permesso, perché tanto poi a loro volta giravano il rischio su altri strumenti, lo impacchettavano, lo spezzettavano, lo facevano sparire, poi ritornava, vabbè. Ma quello che è stata la cattiva gestione del risparmio privato si è poi ripercossa sul debito pubblico. Allora forse non è sbagliato il ragionamento di Tremonti nel dire sì, guardiamo i debiti pubblici, ma guardiamo anche se le famiglie irlandesi, tedesche, francesi, inglesi hanno un indebitamento privato che gli è concesso dalle banche altissimo. Antoine. Devo dire, questo ragionamento effettivamente non fa una grinza, nel senso che in Irlanda il debito pubblico era, mi pare, al 40, poco più del 40% del PIL ed è crollata comunque, travolta comunque, quindi il caso greco è un po' diverso, perché lì... Hanno toccato i conti, quindi è un problema, diciamo così, di criminalità, tra virgolette, amministrativa. Grave, ma appunto si tratta di questo. Sì. Quindi Tremonti fa bene a vibrare il senso della la direzione della valutazione, salvo che adesso si tratterà sulle virgole. Sta stato acquisito da tempo il principio per cui la valutazione del debito non sarà automatica, quindi o tu riduci tot all'anno il tuo debito se non lo riduci. Sei d'accordo, Antonio, devo chiudere, sei d'accordo o no con Tremonti? Sono d'accordo. No, yes, but, sì, ma no, sei d'accordo o no? Direi 50-50, perché il problema, delle procedure sul debito devono avere un riferimento numerico. Vabbè. Che deve essere valutato in termini complessivi. Che a Bruxelles, io vi ho fatto un elogio all'inizio, che a Bruxelles respiriamo, però anche Bruxelles state diventando come a Bisanzio, siete bizantini ogni tanto, no? Ha ragione che bisogna guardare anche i debiti privati, secondo me sì, il che non vuol dire mollare la presa sul debito pubblico, ci mancherebbe, ma vedere anche come comprano casa, macchine, le famiglie private europee, perché se scopriamo che è tutto credito bancario, poi salta per aria il sistema, come è già successo. Grazie al corrispondente di Radio Corriere 24 Ore, Antonio Poglio Salimbeni. No, rido perché c'è un ascoltatore che scrive: ma il mille proroghe l'ha scritto Cettola qualunque? No, però obiettivamente quella sulle aree, sulle 65.000 case abusive già passate in giudicato in Campania, perché ha già deciso il tribunale che devono essere abbattute, tutte prorogate, sine die, anche nelle aree archeologiche. E giovedì magari lo chiediamo alla Brambilla, visto che modererò io l'apertura della BIT, della Borsa Internazionale del Turismo a Milano, perché insomma attrarre i turisti va bene, bisogna anche che trovino qualcosa, non la casa edificata. Vabbè, allora meteo, pubblicità, poi la borsa, poi la Fiat, Draghi e poi Cobas del latte. 349-238-6666 per i vostri sms. Dice 7:38 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di PIL. di borsa e poi anche di Fiat. Allora andiamo con ordine. 349-238-6666 per i vostri sms. Ancora vedo molte. C'è chi scrive: tanto la domanda la Brambilla non gliela farà. Venga, giovedì mattina si inaugura la Borsa Internazionale del Turismo. Radio 24 è il media partner. Personalmente modererò io la convegno di apertura. Ci saranno Formigoni, la Brambilla e Letizia Moratti. Per cui vedrà che la domanda gliela faccio. Parliamo delle case abusive nel Campano, e quelle anche in siti archeologici. Detto ciò, ci torniamo. Prima di tutto, adesso la borsa. Più 0,80% Milano grazie soprattutto alle banche, anzi direi quasi esclusivamente alle banche. Ecco perché Francoforte cresce meno, invariata. Parigi, mi sono perso Parigi, cacarante, adesso ve lo trovo. Comunque l'America è meno 0,30%, Londra meno 0,33%, Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Mi sono perso Parigi, non so, è scomparso dal sistema, tu ce l'hai sotto mano? Perché... Sì, allora, no, è scomparso anche a me, infatti. Ma allora, la momento... borsa di Parigi ufficialmente, almeno come voi come agenzia di stampa, avete decretato la chiusura, ma che è? Perché è la fusione... No, Euronext, già operativa, e che? Vabbè. Allora, qua dice che la borsa di Parigi, io sto leggendo una France Press, termina in rialzo dello 0,33%. Ok, chissà perché è scomparsa dai terminali, però, vabbè. 0,33% Parigi, detto ciò, i titoli... allora, Milano, dicevo, la migliore perché Monte dei Paschi fa il 5,40% di rialzo, Unicredit più 3,25%, Intesa più 3,10%, Ubibanca più 2,5%, Mediobanca più 1,70%, Popolare di Milano più 1,60%, Fondiaria più 1,40%. Vabbè, più basso invece il Banco Popolare più 0,60%. Ma che è scomparsa l'ipotesi di aumento di capitale per il Monte dei Paschi? No, allora in realtà si tratta di un di rialzi che hanno più o meno la stessa motivazione, nel senso che le banche italiane hanno beneficiato da una parte la buona intonazione del comparto europeo in scia ai conti di Barclays, ma non solo. Infatti vi è un emendamento al milleproroghe, secondo quanto riportato stamattina dai giornali, che punta a migliorare la patrimonializzazione delle banche in vista dell'entrata in vigore di Basilea 3 e quindi di ulteriori vincoli per gli istituti di credito, e di questo quindi oggi hanno beneficiato soprattutto le banche italiane, che hanno appunto trainato un rialzo il listino milanese, la piazza migliore in Europa. Allora, devo dire, questa è la spiegazione sul mondo bancario, devo dire che invece il dato sul PIL italiano, Livia, non ha avuto effetti, è tanto che ormai i dati sul PIL non hanno effetti in borsa. Oggi i vari paesi europei hanno diffuso il dato definitivo sul 2010, lo dico che si fosse appena messo in collegamento, la Germania si conferma, era molto atteso il dato, comunque la locomotiva d'Europa, perché ha avuto una crescita incredibile l'anno scorso e ha fatto più 3,6%, avendo fatto meno 5 nel 2009, la Germania a metà di quest'anno è già fuori dalla recessione, cioè è già tornata ai livelli pre-crisi. La Francia ha fatto più 1,5%, ma aveva avuto un calo più basso, meno 2,8%, quindi anche la Francia a metà di quest'anno è fuori, è tornata ai livelli pre-crisi. Altrettanto non si può dire per l'Italia, perché noi abbiamo fatto meno 5% nel 2009 e l'anno scorso abbiamo fatto più 1,1%, quindi questo passo saremo fuori nel 2013. A spanne. Nessun effetto sui mercati, però il commento del presidente dell'Istat Enrico Giovannini, raccolto dalla nostra Laura Bettini, che è inviata a seguire un importante convegno tra Enel e Istat a Madrid. Sentiamo il presidente Istat al microfono di Laura Bettini. Il dato è abbastanza in linea con le attese. Chiudere un trimestre, quarto trimestre positivo, non era facile dopo una riduzione della produzione industriale nel quarto trimestre, ma i servizi e l'agricoltura hanno sostenuto comunque la crescita. Il dato dell'1,1% dell'anno provvisorio, perché poi il primo marzo usciremo con i dati definitivi, anch'esso è in linea con le attese, con le previsioni, e quindi direi che non ci sono grandi novità. Un risultato importante dopo due anni molto difficili per l'economia italiana, ma è un risultato che certamente è al di sotto di quello di altri paesi. Quindi vuol dire che ancora la strada è lunga per riportare i livelli di produzione alle situazioni ante-crisi. Quello che emerge è che effettivamente le esportazioni stanno crescendo, ma crescono anche le importazioni. e in particolare di beni di consumo. Quindi questo vuol dire che una parte della crescita del mercato internazionale è compensata appunto dalla crescita delle importazioni, quindi è la differenza tra i due che fa l'effetto sulla produzione nazionale. In questo senso, appunto, l'economia italiana deve riuscire ad accelerare la crescita, che finora è stata un po' rallentata da una domanda di consumi particolarmente stagnante. D'altra parte, se l'occupazione non cresce, se i redditi non crescono, è chiaro che la domanda per consumi soffre. Ed è quella, infatti, una delle voci che nei trimestri scorsi è cresciuta a un tasso inferiore a quello delle altre voci. Così il presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Allora, scoperto che è successo a Parigi, Livia? Ma in realtà alcuni terminali ce l'hanno il dato, quindi non so, qualcuno ce l'ha, qualcuno no, comunque ha chiuso a più 0,33. No, perché c'erano già gli ascoltatori che ci invitavano ad andare assieme a Parigi a verificare che è successo al CAC 40. Fate pochi furbi e ascoltate la borsa. Allora, andiamo avanti invece. ST Microelectronics più 3,13%, mi sembra che abbia recuperato tutto l'effetto annuncio joint venture tra Apple e Nokia, e poi qui c'è anche l'effetto Ericsson. Sì, allora ST ha chiuso in rialzo per la seconda seduta consecutiva, appunto come dicevi tu, dopo il calo segnato nei giorni precedenti. Sì, infatti oggi le azioni sono state sostenute dalla buona notizia arrivata sul fronte appunto della joint venture ST Ericsson, e infatti l'amministratore delegato ha detto che la società prevede di arrivare al break even, cioè al punto di pareggio, nel secondo trimestre del 2012, grazie soprattutto a smartphone e tablet. E in un incontro a Barcellona con gli analisti, appunto il numero uno della joint venture ha spiegato che il gruppo dovrebbe raggiungere il pareggio con vendite trimestrali intorno a 770 milioni di dollari, superiori cioè a quelle stimate in precedenza, pari a 750 milioni, quindi questo comunque ha influito sul buon andamento del titolo. Allora, Mediaset meno 1,20%, qui c'entra la cronaca giudiziaria, va detto oggi però. Infatti il titolo ha virato bruscamente mal ribasso dopo la notizia arrivata appunto dagli ambienti giudiziari, ed è quella relativa all'ok da parte del GIP di Milano al processo con rito immediato nei confronti di Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio e fondatore di Mediaset. E le azioni hanno proprio risentito negativamente di questa notizia, perché hanno virato al ribasso subito dopo. E gli ascoltatori, sempre solertici, mancherebbe, mi fanno notare che ho detto Apple al posto di Microsoft, era Microsoft chiaramente nell'accordo con Nokia. Chiedo venia, RCS, Rizzoli, Corriere della Sera, movimenti interessantissimi, con Della Valle che ha chiesto alle generali, quindi a Geronzi, di uscire dal patto di sindacato. Il titolo? Sì, il titolo ha guadagnato oltre il 2%. Appunto, Della Valle ieri, Della Valle che è consigliere, ricordiamo, membro del patto di sindacato e azionista con 4,5%, ha detto di essere pronta a incrementare moltissimo la propria quota nella società se fosse libero di scegliere. Bisognerà vedere se sarà libero di scegliere o meno, comunque questo è il titolo beneficiato. Questo non possiamo sapere noi, ma ha commentato al microfono della tua collega Eleonora Micheli, della mia collega anche Eleonora Micheli, il presidente della Ferrari, Montezemolo, e ha detto una cosa molto secca, però molto indicativa anche sull'operazione Della Valle in Rizzoli, Corriere della Sera. Non ho altro da aggiungere, ma auspico che si guardi sempre avanti, come ha detto anche Diego. Come ha detto anche Diego, per cui insomma l'asse c'è tutto, si conferma. Livia, ancora un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi gli altri titoli, Meridiana dopo la conferma dei contatti con l'Italia, Parmalat e anche alcuni tra i migliori e i peggiori della giornata. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Livia, Parmalat la peggiore, meno 3,24%. Sì, allora il mercato ha colto male la notizia che la società non potrà distribuire più del 50% degli utili, almeno fino alla fine dello stato di concordato. Infatti oggi è stato presentato al Senato un emendamento al milleproroghe che ritiene appunto inefficace eventuali modifiche della clausola appunto che prevede l'obbligo di distribuzione degli utili per una percentuale non superiore al 50%. Quindi il titolo ha risentito di questo sostanzialmente. Allora, peggior titolo AF-745. Mondo Home Entertainment -5,26, Cadit -5,20, Icon -3,81 e poi diciamo anche di Parmalat -3,24. Il miglior titolo anche oggi, Meridiana Fly +21,40, Olidata +16,80, Ciccolella +16,3%. Allora, Meridiana, sempre l'ipotesi che interessi o all'Italia o alla Lufthansa? Sì, sostanzialmente sì, la società infatti sabato ha confermato l'esistenza di contatti con Alitalia dopo le indiscrezioni relative a un possibile merger, ma ha detto che allo stato non ci sono accordi di partnership, ma il mercato ovviamente continua a scommettere su operazioni straordinarie. Grazie a Livia Zancanera, Radio Coro del Sole 24 Ore. E adesso, anzi, Livia? Sì. Fiat, perché oggi è andata male Fiat, soprattutto sul settore camion e trattori, no? -2%. Motivi? Sì, allora no, in realtà non ci sono motivi, oggi c'è stata l'audizione di Sergio Marchionne, l'amministratore delegato. Bisogna dire che il settore auto è andato male ed è uno dei comparti che ha penalizzato le borse, però novità in merito proprio a Fiat Industria non ci sono state. Fiat auto invariata, ti è riapparsa a Parigi come quotazione? Controllo. No, niente. Neanche niente a Parigi. Allora siamo in due. Va bene una quotazione a Parigi. Grazie Livia Zancanera, adesso parliamo di Fiat. Eh sì, perché è molto attesa oggi l'audizione del numero uno di Fiat, Sergio Marchionne, alla Camera. Ripeto, a chi piacciono le note di colore, diversamente dal solito non era in maglioncino ma in giacca e cravatta, forse per rispetto alla Camera dei Deputati. Comunque, ha detto che rispetta e ha fiducia nel futuro dell'Italia, che la sede resterà a Torino se si realizzerà il piano Fabbrica Italia. E questa è una frase un po' più criptica. Il cuore è in Italia e resterà in Italia, la testa in più sedi. Se si realizzeranno le condizioni che sono la base del nostro piano, allora il nostro paese sarà nella posizione di mantenere la sede legale. E per quanto riguarda invece le sedi operative, già ora è indispensabile avere presenze specifiche nei mercati in cui stiamo operando. Non si può pensare di gestire attività tanto vaste senza avere una sede direzionale sul posto. E per questo, se il cuore della Fiat è e resterà in Italia, la nostra testa deve essere in più posti. A Torino per gestire le attività europee, a Detroit per quelle americane, ma anche in Brasile e in futuro anche in Asia. La volontà di mantenere una forte presenza in Italia è testimoniata anche dai dati sull'occupazione del gruppo. Nel 2004, infatti, il complesso delle nostre attività nel paese occupava circa 70.000 persone, oggi quel numero è salito a 81.000. E poi ha continuato Sergio Marchionne, avete sentito questa parte da testa in più sedi, vabbè. Nessuno ci può accusare di abbandonare il paese. Veramente facciamo presente a Sergio Marchionne, che è stato lui a dire che l'ipotesi di fusione con Chrysler della testa anche in America. Comunque, vabbè, nessuna intenzione di lasciare l'Italia, e questo ci fa piacere. Le critiche, abbiamo ricevuto critiche offensive, perfino demenziali. Qualcuno è arrivato anche a denigrare i nostri prodotti e ad avanzare dubbi sulla strategia del Lingotto. Avrà sicuramente ragione, noi abbiamo solo fatto notare personalmente che Fiat ha un problema nel vendere auto, vende poche auto, ci sono pochi modelli che stanno uscendo, i dati lo dimostrano quando guardiamo le matricolazioni, mai ci siamo permessi di criticare altro, abbiamo anche dato ragione a Marchionne quando nella trattativa su Mirafiori, però i modelli sono in ritardo, oppure non ce ne sono, e Fiat soffre più dei concorrenti in Italia quando deve vendere auto. E lui ha detto che arriveranno comunque i modelli, però attenzione, perché parlando della produzione, ha detto il 2010, cioè lo ha ammesso, è stato disastroso, abbiamo prodotto appena 561.000 auto. Noi vogliamo arrivare a 1.400.000 nel 2014, più del doppio di quello del 2009. Sentiamo questo passaggio. L'obiettivo di Fabbrica Italia è quello di incrementare gradualmente i volumi di produzione di autovetture nei nostri impianti italiani, arrivando nel 2014 a raggiungere 1.400.000 unità, più del doppio rispetto alle 650.000 prodotte nel 2009. L'aumento è ancora più significativo se lo confrontiamo con un anno disastroso come il 2010, quando siamo arrivati appena 561.000 vetture. E a questo va aggiunta la produzione dei veicoli commerciali leggeri, il cui obiettivo è quello di arrivare a 250.000 unità annue rispetto alle 150.000 del 2009 e alle 190.000 del 2010. In totale, il piano di Fabbrica Italia è quello di raggiungere nel nostro Paese la produzione di 1.650.000 veicoli nel 2014. E tutto ciò avrà anche un impatto positivo sull'export. L'obiettivo è di produrre in Italia entro il 2014 oltre 1 milione di veicoli destinati all'esportazione, di cui circa 300.000 per il mercato statunitense. La percentuale delle esportazioni crescerà quindi dal 50% dell'anno scorso al 65% nel 2014. Allora, così Marchionne sulla parte di investimenti di Fabbrica Italia. Lui ha confermato anche 20 miliardi di investimenti. Questo passaggio lo sentiremo dopo il GR, e così come parleremo dei Cobas, con i Cobas del latte, e forse faremo ascoltare anche quanto dichiarato Mario Draghi e Giovanni Bazzoli poco fa dopo l'incontro all'Arel. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, concludiamo l'approfondimento sull'audizione di Sergio Marchionne alla Camera. Giustamente, come di voi ci fanno notare, che era in giacca perché è d'obbligo, avete ragione. Dopo aver ricordato appunto che la Fiat è uscita dalla crisi senza il minimo aiuto o assistenza dello Stato, e aver detto che non ha richieste da fare alla politica, Sergio Marchionne ha confermato i 20 miliardi di investimenti previsti dal Lingotto per l'Italia. 4 miliardi, ha detto, andranno a Fiat Industrial, 16 miliardi, e quindi Fiat Camion e Trattore, e 16 miliardi a Fiat SPA, cioè Fiat Auto, di cui il 65% appunto per Fiat Group Automobiles. E poi è arrivato sulla frase propositiva, ha detto: siamo anche noi pronti, come ha fatto la Volkswagen, a dare aumenti salariali come in Germania, se riusciamo a portare l'utilizzo degli impianti dall'attuale 40% all'80%. Questo piano rappresenta anche una grande opportunità per creare nuovi posti di lavoro in Italia e per aumentare i salari. Quando un sistema non è in grado di competere, purtroppo sono i lavoratori e le loro famiglie a pagarne direttamente e senza colpa le conseguenze. Ma allo stesso modo sono i lavoratori per i primi a beneficiare di un aumento di produttività e di efficienza. Se riusciamo a incrementare l'utilizzo degli impianti, arrivando ad una percentuale dell'80% rispetto all'attuale 40%, noi siamo pronti ad aumentare i salari portandoli al livello della Germania e della Francia. E questo senza ricorrere a ipotesi irrealistiche di replicare in Italia modelli di altri paesi europei che hanno storia e caratteristiche totalmente diverse. Ho già detto che siamo anche pronti al passo successivo, alla partecipazione dei lavoratori agli utili dell'azienda. Abbiamo l'esempio di Chrysler a testimoniarlo. Nel 2010 l'azienda ha ottenuto un risultato operativo di oltre 760 milioni di dollari grazie alle attività realizzate negli Stati Uniti e in Canada. E quindi abbiamo riconosciuto lo sforzo fatto dai lavoratori, e per ringraziarli del contributo che hanno dato ai risultati di Chrysler abbiamo deciso di distribuire a tutti i dipendenti un premio di produttività. Questo può succedere anche in Italia, ma è chiaro che prima di parteciparli gli utili dobbiamo farli. E così come abbiamo detto che insomma la Fiat dovrebbe portare dei modelli più freschi, ha detto che la Panda, ha detto Marchionne, arriverà entro fine anno, va detto che queste dichiarazioni di Marchionne a nostro avviso sono inattaccabili, cioè l'aumento di produttività mantiene il posto di lavoro. E poi perché non credere a Marchionne sia sugli investimenti che ha promesso sia sul fatto che se gli impianti andranno a produrre come in Germania vi saranno anche dei premi di produttività e quindi degli aumenti salariali. Però prima è innegabile che la Fiat debba tornare a fare utili, su questo non ci piove obiettivamente. Dalla Fiat alle banche e poi Cobas del latte, perché politici, economisti, banchieri, esponenti del mondo della finanza, oggi tutti al convegno organizzato dall'Ared sul tema dell'autonomia della politica monetaria presso la sede dell'ABI, delle banche italiane. La politica monetaria è quella che decide i tassi di interesse. Tendenzialmente la fa la Banca Centrale Europea. In questo momento il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ha detto che bisogna salvaguardare la credibilità della politica monetaria e purtroppo anche in Europa delle volte si è preferito piegare le regole anziché aggiustare le politiche di bilancio, cioè le leggi finanziarie, annacquando il patto di stabilità o violandone lettera o spirito. E attenzione, questo è il momento di Draghi. Non esiste una politica monetaria, cioè una politica sui tassi di interesse, che possa porre rimedio alla irresponsabilità di altre politiche, quelle dei governi. Durante l'ultima crisi, l'ancoraggio delle aspettative di inflazione nell'area dell'euro ha concesso un ampio spazio di manovra alla politica monetaria per garantire il funzionamento dei mercati, per sostenere il credito, evitare il tracollo dell'economia. I tassi di mercato monetario sono scesi su valori senza precedenti, vicini allo zero. Sono state adottate misure eccezionali di creazione di liquidità senza muovere le aspettative di inflazione nel medio-lungo termine. Non si è ripetuto, in altre parole, lo stop and go di politica monetaria tipico degli anni 70. La credibilità che abbiamo raggiunto va salvaguardata mantenendo alta la guardia. È un insegnamento dell'esperienza degli anni Ottanta, anche il principio irrinunciabile per la costruzione europea, che politiche fiscali sostenibili sono fondamento essenziale di una unione monetaria. A questo intendeva rispondere il patto di stabilità e crescita. Tuttavia, si è a volte preferito piegare le regole anziché aggiustare le politiche, annacquando il patto violandone lettera e spirito. Molti Paesi membri hanno affrontato la crisi globale con livelli già elevati del debito pubblico. I problemi di finanza pubblica avevano origine anche da squilibri strutturali, a cui era stata prestata un'attenzione insufficiente. Oggi, come negli anni Ottanta, la politica monetaria non può essere considerata un rimedio alla irresponsabilità delle altre politiche. Traduco, anche se tradurre il governatore è difficilissimo, stiano attenti i governi europei, perché se non risanano i conti pubblici e non tengono sotto controllo il deficit e i debiti, questo vogliono dire le politiche fiscali, non c'è politica della Banca Centrale Europea, non ci sono tassi che tengano ed è grave ed è rischioso piegare le regole che ci siamo dati per tenere sotto controllo i conti per interessi di carattere politico, per non fare la riforma delle pensioni, per non tagliare la spesa pubblica e altre amenità. È intervenuto anche il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli. Ascoltiamolo perché l'ha intervistato il nostro Vincenzo Miglietta. Da un lato ha salutato con favore la candidatura che ha fatto anche il Financial Times di Draghi a futuro presidente della Banca Centrale Europea e poi ha ricordato la situazione del sistema bancario italiano. Mi rimetto a quello che ha detto l'ultima cosa che ha detto, l'ultima affermazione di Letta, quando ha detto che, introducendo il discorso di Draghi, ecco che quando ci sono delle persone, qui adesso si riferiva a Draghi, io sono reduce da quell'altro incontro di ricordo di Padoa-Schioppa, oggi abbiamo ricordato Andreatta, quando ci sono delle persone che sono così stimate, gli italiani così stimate fuori d'Italia, un po' l'animo si solleva. Visto che qui siamo in sede ABI, non posso fare a meno di dire che ci sono delle situazioni in cui le banche italiane si trovano in una posizione nei confronti delle banche straniere di non competitività, che riguardano soprattutto aspetti fiscali. Ecco, io credo che quando si parla di recupero di redditività si pensa soprattutto alla necessità di adeguare, ecco, la normativa italiana in materia a quella degli altri paesi, senza di che le banche italiane sarebbero in una condizione, ripeto, non concorrenziale. Così Giovanni Bazzoli al microfono, il nostro Vincenzo Miglietta, adesso il traffico e poi ospitiamo volentieri i Cobas del latte, quelli che non pagano le multe, quelli che ci costeranno 30 milioni di euro a tutti noi, che verranno levati dal welfare, dai servizi ai disabili, all'università, alla ricerca, gli asili e quant'altro. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, ultima parte del programma, vediamo di mantenere la calma, lo dico a me stesso, me lo dico. Partiamo prima dal mille proroghe, da quello che abbiamo chiamato la bottega degli orrori, perché dentro c'è anche la proroga di 6 mesi per il pagamento delle quote latte, però ci sono altre cose veramente da bottega degli orrori. Come definire altrimenti, lo so, ci torno, ma la sospensione dei termini per la demolizione di costruzioni abusive in Campania. Se lo siete perso ve lo ricordo, il 20% di tutte le costruzioni abusive in Italia si concentra in Campania, una su cinque. Sono 65.000 immobili per cui esiste già una sentenza in giudicato che dispone l'abbattimento. Allora, non si capì. Tra l'altro questo vale anche per le aree vincolate da norme di tutela paesaggistica. E questa è la cosa che ci sembra ancora più grave, per cui c'è già una sentenza del Tribunale che dispone l'abbattimento di queste case, anche nelle aree paesaggistiche, niente da fare, sospensione dei termini per le demolizioni. Non si capisce poi quando verranno abbattute. E poi, ne volete sentire un'altra? Ce ne sono altre due che sono assolutamente carine, come per essere buoni, come misure presenti nel mille proroghe. Per esempio parliamo del numero degli assessori nelle città. Eh sì, perché era una misura obiettivamente di cui non si poteva fare a meno. Torna ad aumentare il numero degli assessori nelle città di oltre 1 milione di abitanti. Il limite, che era posto a 12, viene rialzato a 15. Poi ci sono cose anche minori, tipo la sanatoria delle multe per le affissioni di manifesti e striscioni di politici durante la campagna elettorale abusivi. Lì basta pagare 1.000 euro e siamo a posto. E poi, mentre Confindustria Reggio Calabria lamenta che per il porto di Gioia Tauro arrivino solo le briciole, poi c'è la proroga di 6 mesi del pagamento delle multe delle quote latte. Allora, attenzione anche qui, perché sono 30 milioni di euro che verranno finanziati con tagli ai fondi per le politiche sociali. È la fascia C, se non ricordo male, nei tagli, tagli nei fondi per le politiche sociali e ancora istruzione e università. La tabella C della legge di stabilità sono appunto famiglia, diritto allo studio, finanziamenti all'università, fondi per le politiche sociali. L'emendamento è presentato dai senatori leghisti Vallardi, Montani, Mauro, Bodega e Garavaglia. Allora parliamo di latte. Antonio Bedino, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, lei è veterinario, è allevatore di mucche da latte, ne ha quasi 300, ed è presidente di Cosplat Piemonte, ossia l'associazione sindacale dei Cobas piemontesi del latte, e uno degli allevatori multati per aver sforato le quote produttive. Perché non le volete pagare? Allora, un brevissimo riepilogo sulla vicenda. Nel 2003 avete avuto la sanatoria Alemanno, che vi ha rateizzato le multe in 14 anni, le sanzioni dovute. L'Italia fino adesso, per le vicende delle quote latte, lasciamo stare che lei sia d'accordo o no, ma insomma ha pagato a livello europeo, cioè non ha avuto trasferimenti dall'Europa, per 4 miliardi di euro. Nel 2009 arriva una nuova sanatoria, quella di Zaia, al tempo ministro dell'agricoltura, vi permette di rateizzare da 10 a 30 anni a seconda dell'importo. La stragrande maggioranza dei produttori ha pagato le multe. Mancano 560 produttori, tra cui lei, su oltre 39.000 aziende. Tra l'altro 400 milioni di euro sono già stati versati dai suoi colleghi produttori come pagamento delle multe. Adesso, questi sono i fatti, lei mi spiega perché io e tutti gli italiani dobbiamo pagare 30 milioni di euro dalla fascia C della manovra di stabilità, della manovra finanziaria, quella di fondi che andavano alla famiglia, ai disabili, alle politiche sociali, al diritto allo studio, perché voi non volete pagare le quote latte che lo Stato ha già pagato, tra l'altro. Prego. Allora, ci sono una serie di inesattezze che vanno dall'importo di 30 milioni di euro, che non sarà così, ma sarà ridotto circa del 90%, sarà l'importo tra i 2 e i 5 milioni di euro. E questa è la prima cosa. La seconda è che la storia delle quote latte è iniziata nell'83. Nel 96, dopo che lo Stato italiano ha pagato di quelli che lei dice 4.000, 2.000 e passa miliardi di vecchie lire, li ha pagati lo Stato italiano perché è stato condannato lo Stato, poi lo Stato si è rivalso sulle associazioni produttori, e parlo dei tre sindacati nazionali, con diretti sia con agricoltura, se si legge la relazione del generale Vesca voluta come commissione d'indagine dal primo ministro Prodi allora, no? E quindi quello era stato un problema, un errore dello Stato, un errore voluto dallo Stato, gestito male dallo Stato, per cui sì. A questo punto noi ci sentiamo in dovere di continuare, come abbiamo fatto dal 96 in poi, a difendere la nostra zootecnia, perché il problema delle quote latte, che viene ricordato adesso, mi spiace leggere continuamente sui giornali Casini, Fini, tutti questi politici che c'erano nel 94 e che loro c'erano già nel 94 e prima del 94, perché fu un errore storico rinunciare alla zootecnia. No, ho capito. Allora. Però il problema qual è? Che noi ci siamo trovati nel 96, perché è cominciata nel 96 la battaglia, a difendere la nostra zootecnia. Se poi si vuole ridurre tutto a quei 30 milioni di euro è un errore, perché l'errore è molto più grande. Non si preoccupi, Bedino, la facciamo parlare, però. I 30 milioni di euro interessano tutto, ma sarà un problema della ragioneria dello Stato. Ti ricordi una cosa, che chi tarda a pagare le multe, come sottoscritto, nel momento in cui le paga anche gli interessi. E ci mancherebbe, vale anche per le multe, Bedino. Ci mancherebbe che le facciamo anche lo sconto. Un secondo solo, le lascio lo spazio, però mi faccio fare domande. Intanto i 30 milioni non sono 30 milioni, ma sono 4 miliardi di euro di mancati trasferimenti d'Europa che non abbiamo ricevuto, perché quando lo Stato paga, cosa fa? Rinuncia dei trasferimenti dall'Europa verso l'Italia, perché l'Europa ci ha multato. Quindi i soldi sono un po' di più, 4 miliardi. Dopodiché è appena arrivata una notizia che mi fa felice, perché dopo le polemiche che anche la stampa e anche noi abbiamo creato, mi permetta Bedino, il governo cambia rotta. Allora, le risorse scendono a 5 milioni dai 30 milioni e non verranno più levate dalla fascia C, quella per appunto i servizi sociali, disabili, scuola, università e ricerca, la tabella C e politiche per la famiglia, e questo mi sembra da festeggiare. Allora, festeggiato il fatto che non sono più 30 milioni ma 5 milioni, che non ci rilevano più dalla fascia C, quindi le politiche per la famiglia, Bedino, mi faccia capire una cosa. La stragrande maggioranza dei suoi colleghi allevatori le ha o ha rispettato le quote, perché è una legge, o quando le ha sforate le ha condonate, le ha pagate, le ha rateizzate. Allora, voi 500, gli altri migliaia, 32.000 aziende, cosa sono? Dei Mona, dei Pirla? Voi siete gli unici che difendono le quote latte in Italia? No, io dico, prima cosa, massima stima, combattiamo dal 96 per non dividere la categoria, perché siamo già pochissimi, perché vedete che nel 96, quando è iniziato a prendere quote latte, eravamo 150.000 aziende che producono latte, oggi siamo 35.000. Però la cosa importante è che noi abbiamo deciso di... la battaglia è nata perché ci sembrava, non era solo una questione economica, il fatto è che abbiamo visto che l'Europa dall'Italia, come tutti, vuole solo il meglio. Noi ha condannato. No, Bedino, ascolti, guardi, abbiamo 3 minuti. Intanto ho fatto male a mandare il gallo e mi sto mangiando le mani, perché è arrivata la seconda agenzia. È vero che da 30 milioni sono scesi a 5 milioni, ma sapete dove li prendono? Io spero che il governo abbia fatto uno scivolone. Li prendono dai fondi per dare assistenza e cura ai malati oncologici, ai malati di cancro. No, Bedino, un attimo, non è lei il governo, non ancora perlomeno, dai. Un attimo ancora, cioè, quindi non più dalla tabella C, ma da un fondo per riequilibrare gli interventi socio-economici nei vari territori per l'assistenza e cura ai malati di cancro. Ma io non lo so, vabbè. Sto zitto. Bedino, mi dica, abbiamo due minuti, mi dica una cosa, mi dire sì o no, gli altri allevatori che hanno rispettato la legge e si sono messi in regola, cosa sono? Dei pirla? Dei mona? Cioè voi siete gli unici difensori? Io vi ho chiamato banditi, anche Robin Hood era un bandito, e chi non rispetta la legge è un bandito. Allora, lei si rende conto che non sta rispettando la legge, sì o no? No, ma noi la legge l'abbiamo osteggiata dal primo giorno. Ho capito, ma se io non sono d'accordo con un semaforo rosso, non è che mi metto a tirare dritto sul rosso e gli altri sono dei pirla. Noi non abbiamo mica tirato dritto sul rosso, sa, perché noi non abbiamo, prima non abbiamo fatto il latte in nero, come ha fatto tanti altri delle organizzazioni sindacali, c'è un processo a Saluzzo proprio per quello. La seconda, noi abbiamo detto, noi non, guardi che non abbiamo mai comprato un magistrato, ci siamo difesi per adesso davanti al magistrato. Di tutto, se l'importo delle multe era 100, per adesso il 50% l'abbiamo annullato, ma non perché l'abbiamo ricevuta. Grazie ai magistrati, e andiamo avanti così fino alla fine, perché siamo convinti che la commissione voluta da Zaia porterà a avere un risultato zero. Poi saremo noi a chiedere i danni al vero bandito, che in questo caso. Allora, mi dica solo una cosa, Bedino, perché adesso dobbiamo concludere. Lei ha detto che ho detto delle imprecisioni. È preciso o no questa informazione? E cioè che nel luglio del 2009 lei è stato condannato dal Tribunale di Saluzzo a un anno e mezzo nell'ambito di un processo per truffa ai danni dello Stato e dell'Unione Europea, con lei altri 54 imputati, tra cui, sto finendo un attimo, l'ex parlamentare della Lega Nord Giovanni Robusti, 3 anni e 6 mesi per truffa, false fatture e illecita gestione. È vero o no? Allora, il sottoscritto è stato condannato un anno per aver fatturato il latte, mentre invece ci sono i membri delle organizzazioni sindacali che hanno fatto il nero. E non hanno ma ognuno pensi per sé, Bedino, ognuno pensi per voi, iniziate a rispettare le quote, fate una battaglia politica, Bedino l'abbasso, fate una battaglia politica per aumentare le quote e vi appoggiamo se ritenete che siano sbagliate, ma non è che gli altri 98% sono dei pirla e voi che continuate a spafonare avete ragione, poi beccate anche le condanne e venite a darci lezione. Grazie, volevo sentire e capire qual è il vostro punto di vista. Grazie anche Antonio Bedino. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, speriamo che si sia sbagliato il governo con questi 5 milioni di paesi malati di cancro, non volevo arrabbiarmi, non ce l'ho fatta, chiedo scusa, buona serata, a domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.